ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Ventesima puntata. Solo dopo che le leggi razziali sono piombate come un macigno sulle comunità italiane, solo allora Enzo convince finalmente suo padre e sua madre alla Palestina. E il passaporto ormai è difficile averlo. Solo i meriti di Lello con la Casa Reale e soprattutto quelli patriottici di Enrico valgono ad ottenere quel privilegio in cui tutti vorrebbero rifugiarsi e pochi riescono poi ad utilizzare. E dunque Alfonso e Lello partono, ma si dicono per poco, come un interludio o vacanza, per diporto, del resto c'è scritto sulla loro autorizzazione a viaggiare. Ermelinda resta. Irridono il suo attaccamento ai bei mobili, ai vestiti, ai gioielli. Premono per affetto perché si metta in salvo anche lei. Ermelinda ha visto il deserto e i disagi. Ha portato al kibbutz denaro e consigli, ma sa quella vita impossibile per lei. Qui e non laggiù sono le sue radici e quelle di tutti i suoi che terrà vive se riuscirà a tenersi in vita lei stessa. L'aiuteranno le parole, quelle dei libri, quelle delle lettere minuziose che scriverà e di quelle scarne e colme di richieste che riceverà. Con le parole, finché almeno sarà possibile dirne. Il filo che la lega alle sorelle e ai fratelli, ai nipoti disseminati nel mondo, agli amici sempre più lontani, non si spezzerà. A Givat Brenner, nella casa accanto e fuori dal kibbutz dove è andata ad abitare, Alfonsa giorno dopo giorno vede crescere la comunità che Enzo ha sognato, gli ortaggi strappati al deserto, un'officina. Alfonsa contribuisce con un allevamento di polli, ogni mattina li ingozza perché vengano più floridi. Dei suoi figli solo lei è con lei. Mimmo è in Francia e ancora in pericolo, e anche Enzo viaggia sempre. L'America per raccogliere fondi e l'Olanda per portar via ebrei riluttanti e increduli. L'Iraq. Ci sono i nipoti, certo, e Alfonsa con loro resta solida e giusta. Ma la solitudine, lo spaesamento le pesa fino alla malattia, emicranie invincibili e dimagramenti improvvisi. Al kibbutz arrivano strani doni. Non sempre chi li manda da paesi lontani ha ben chiare le necessità reali, la penuria di tutto. Dagli abiti alla carta per scrivere, dagli aghi da cucito ai coltelli. Quel carico dall'Inghilterra è stato annunciato da tanto tempo e quando il camion finalmente arriva la curiosità generale è allo spasimo. Bianco di polvere è il camion, fermo su quello che pomposamente chiamano il piazzale. Bianco di polvere anche lui. L'autista chiede aiuto per togliere il telone di protezione. È una gara. E il camion partorisce un pianoforte, lucido e incongruo fra i cenci e le baracche. L'autista riparte preoccupato del tramonto e degli agguati e tutto il kibbutz si stringe attorno allo strumento in uno stupore che è delusione e insieme divertimento. Poi uno dei coloni va a prendere uno sgabello basso dalla mensa e seduto davanti al pianoforte apre il coperchio con cautela. Pulisce sui pantaloni le mani sporche dei campi. Saggia l'accordatura con un giro di scale, poi un valzer di Chopin si alza nel silenzio, sale alto nel cielo che va imbrunendo. Opera 34, numero 2, mormora Alfonsa, e ha in mente Ermelinda e via Cavour, i bei materassi di lana e il piumino da spolvero di finimola. Le incertezze del pianista che è fuori esercizio la disturbano in misura non tollerabile. Va via. Per sue faccende di casa e di polli, per non pensare più a quanto è lontana, altrove, tutta la vita che ha vissuto. Thank you. Da Mosca le accuse contro Mimmo rimbalzano a Parigi. O forse il clima interno al gruppo dirigente italiano basta da solo a produrle come nuove. Il lavoro del partito va male, sulle masse imbrigliate dal fascismo non si riesce ad agire e ci sono stati tanti arresti. La fatalità non è categoria mentale ammessa e la linea del partito è giusta. Dunque certamente qualcuno ha tradito, qualcuno è colpevole, bisogna smascherarlo. Come microbi sotto la lente di ingrandimento, ogni passo di ciascuno viene analizzato, ogni ragione sviscerata, ogni leggerezza sottoposta a sanzione. Mandare fiori alla moglie di un cugino perché ha partorito può essere colpa grave se quel cugino è socialista e magari fortunosamente, dunque in modo sospetto, sfuggito a un arresto. Nel caso di Mimmo colpa grave sono i rapporti con Eugenio Colorni, con Hirschman che è suo cognato, con il mascalzone Paolo Milano, con Enzo che sotto l'abito sionista celerebbe accesi sentimenti antistalinisti. Colpa gravissima aver ospitato recentemente questo mascalzone a casa sua, senza di questo informare il partito e senza prenderlo a calci nel C. Puntini puntini. L'inchiesta condotta da Berti è, come in tutti gli altri casi, ostinatamente malevola e nei confronti con altri accusati non sempre Mimmo riesce ad addurre ragioni, malgrado l'autorevole difesa di Togliatti. Una manovra infernale di tasca per far espellere Sereni, scrive di suo pugno al margine del verbale. Mimmo viene in conclusione sospeso per un periodo dal partito. Un terremoto, un ritrovarsi improvviso senza legge e senza futuro. Xenia e Mimmo stretti in una morsa di sofferenza che li fa più vicini che mai, ma disperati e senza forze. Le loro figlie vivono un'improvvisa vacanza, cure più solerti e passeggiate per le vie e nei parchi. C'è per Xenia la paura di finire come tanti. Tutti quelli che fuori dal partito annaspano nelle beghe di un'emigrazione senza più altro scopo che non sia quello di sfuggire alla polizia o farsene complice. Per Mimmo c'è un vuoto grande, nelle cose da fare e nei pensieri. Ma in quel vuoto a poco si fa strada la convinzione che il partito comunque farà ciò che è giusto. Mimmo aveva ragione a non disperarsi. La sospensione durò poco e, dopo, un silenzio plumbeo, carico di omissioni, per salvare se stessi dentro il partito, per salvare il partito dentro di sé. Quando le dissero che la donna di servizio non avrebbe più potuto tenerla, Ermelinda pensò che davvero nessuna cosa era più al suo posto e nessun posto più aveva la sua cosa. La polvere, l'unto dei piatti, le macchie sui vestiti, tutta la sporcizia della vita le fu addosso d'un tratto e pensò di non resistere. A 70 anni, dicono, è tardi per cambiare. Fu attenta a non sciuparsi le mani. Non smise di suonare il pianoforte né di recarsi ai concerti, perché non poteva pensarsi in vita senza qualche agio, magari segreto e piccolissimo e incomprensibile ad altri. Fra i parenti e gli amici, chi non era andato via dall'Italia aveva perso il lavoro. La disperazione si mescolava all'incredulità. Ermelinda non fu incredula e non si lasciò disperare, neanche quando la tragedia la lambì da molto vicino. Giacomo Pontecorvo di fu pellegrino e fu Giuditta Tagliacozzo, di razza ebraica, commerciante. Uscì di casa come ogni mattina, alla stessa ora, con lo stesso paltò, con la stessa faccia. Sulla soglia salutò sua moglie con la tenerezza di sempre e il solito bacio sulla guancia. Lei rimase in casa a sbrigare faccende. Quando per il tocco non lo vide arrivare, la moglie si preoccupò, ma perché era anziano e perché la sua salute era malferma. La chiamarono per il riconoscimento, quasi impossibile per come si era ridotto. Dissero che doveva essere scivolato per quella maledetta mania che aveva di prendere i treni in corsa. Dove dovesse portarlo quel treno, nessuno riuscì mai a immaginarlo. Di tanti treni, del resto, ancora non si conosceva la destinazione. E su molte morti inesplicabili, la stampa, in genere, preferiva non interrogarsi. Lungo la strada spaccata dal sole, Xenia cammina da sola verso Givat Brenner, verso le notizie di sua figlia. A volte un qualche mezzo di fortuna le abbrevia il cammino ed è un regalo. Più spesso è a piedi che copre il tragitto da Naan a Givat Brenner, non breve né scevro da pericoli. All'arrivo l'affetto di Lello e di Alfonsa, l'acqua per rinfrescarsi, un frutto, tornando al kibbutz, il seme di poche frasi, spesso generiche, da farsi germogliare dentro. Cerca di non farsi tornare alla mente i contrasti aspri con Xeniuska, le mille liti e discussioni del passato. Comunque si dice che sull'amore non possono incidere e si convince che sono solo coatte le ragioni per cui sua figlia non le scrive più. Così resta almeno intatta, accanto al dolore, la possibilità di amarla, quella figlia strana e lontana. A Parigi è primavera. Enzo se ne accorge per quel raffreddore da fieno fastidioso che lo insonnolisce. Per le gemme sugli alberi, per il solicello dei che non ha tempo, né occhi. Dopo la conferenza di Monaco, il suo lavoro si è fatto via via più frenetico e disperato. Sa che solo in pochi si salveranno, prevede tragedie che altri sminuiscono, quasi irridendolo. Che lo definiscano una Cassandra gli importa poco. Si sente sul collo il fiato della guerra, che rende più pressante ogni urgenza. L'urgenza di tenere insieme il suo mondo. La Palestina e la famiglia, gli ebrei tedeschi e gli americani, l'Europa che va in pezzi e nessuno fa niente per impedirlo, gli arabi e gli ebrei condannati a convivere, la filosofia, la letteratura, le armi. Per tessere la sua tela è costretto a una spola frenetica che non basta a farlo sereno. Con Mimmo non si vedono da tanto tempo, chissà cosa sono adesso le sue figlie e Xenia e lui stesso. La guerra che preme alle porte impedirà nuovi incontri. E non è detto che siano ancora vivi dopo. Rompendo la consegna dell'assenza, con molte precauzioni Enzo fa chiedere al fratello un'occasione, un saluto. Benché le regole della clandestinità siano vitali anche per lui, è disposto a rischiare anche molto. La risposta inappellabile e secca è no. Del rifiuto Enzo non si sorprende. Del proprio dolore, dell'incapacità a rassegnarsi, sì. Per questo scrive ai suoi in Palestina. Per Alfonso è un colpo ribadito. Pensare ai suoi figli così separati da non potersi neanche salutare è qualcosa che non può credere di aver seminato lei stessa. Ha bisogno di motivi esterni. Immagina ordini del partito ed è una parte della verità. Contravvenendo alla norma del silenzio che sempre ha osservato rispetto alle scelte dei suoi figli, si lascia andare a rimproveri e addirittura a suggerimenti di sotterfugi per rispettare quella clandestinità che serve a salvarli, i suoi figli, tutti e due. Ai suoi richiami Mimmo risponde in un modo che le toglie via ogni speranza. 15 maggio 1940. Carissimi, dopo le vostre lettere sul mancato incontro con Enzo, che ci hanno così dolorosamente colpito, anche se comprendiamo la vostra amarezza, Xenia mi diceva come fin nei suoi sogni ritornasse ogni notte la vostra immagine addolorata. Ma a tempi duri occorrono, ahimè, uomini duri. E non pensiate che qualche volontà esterna, come mi sembra abbia compreso mamma, abbia determinato la nostra decisione. Si tratta di una necessità di cui io penso che il seguito degli avvenimenti vi dimostrerà il fondamento. E se siamo duri, è appunto perché non vengano più tempi in cui i padri sono separati dai figli e i fratelli dai fratelli. So bene quel che mamma dirà, che molte volte i figli han detto queste cose alle madri. So bene che non sono delle parole che possono lenire il vostro dolore, ma io credo che dalla stessa immensità della tragedia in cui l'umanità si dibatte e in cui si fonde e scompare ogni tragedia individuale, gli uomini sapranno trarre, nella pace, un mondo migliore, in cui non sarà scomparso il dolore e la lotta, che allora sarebbe scomparsa la vita, ma in cui gli uomini impareranno a lottare più da uomini e meno da belve. Alfonso non sa di filosofia e la politica le ha rubato i figli. Quella durezza la dispera e non può accettarne le ragioni. Forse soltanto Enzo, riconoscendo la citazione di Croce fra le righe, capisce il messaggio di Mimmo, oscuro per prudenza o per inconsapevolezza, che riconferma di quale pasta siano e quanto indistruttibili le radici che li uniscono. Da quelle radici forse sarà possibile, dopo, quando tutto sarà finito, ripartire per reimparare ad essere vicini. La guerra di Xenia è fatta di valigie a doppio fondo e armi da trasportare, di articoli per la stampa clandestina, di lavoro minuto e gregario per il partito, di ansie per Mimmo e della necessità di proteggere le figlie, di costruire per loro un minimo di normalità vivibile, di tendine staccate e riappese tante volte per fare casa, di ricerca del cibo, di invenzione, di sogni di pane e burro come un paradiso perduto, del servizio d'argento salvato insieme all'orologio e all'orso Mishka nei traslochi ogni volta più disperati e pericolosi. Nelle soste anche brevi, Leuzzi inventa per la sorellina bambole di stracci e Marinella per quei regali si illumina tutta. Le bambole non le interessano, l'affetto le è indispensabile. Lo coglie dove può, ammirata della vitalità di Lea e delle sue creazioni. Poi, quando la sorella ogni volta sparisce, riposte le bambole, Marinella torna a Mishka, a curargli la pancia ormai tutta scucita e le zampe consunte. La guerra di Mimmo è fatta di fughe rocambolesche in cui si perde tutto, beni di sopravvivenza e ricordi, ma i libri si riesce a metterli al riparo. Di una colonia agricola come una comune o come un kibbutz, di cui vivere e dove progettare il patto d'unità d'azione con i socialisti, di contrasti e stupori, della fatica di rendere coerente la politica del partito e i cambiamenti di rotta dei sovietici, di un carico di topinambur, i tuberi che Mimmo considera di pregio e Giorgione a Marsiglia accoglie come un'offesa al gruppo dirigente, di un giornale clandestino per le truppe italiane che occupano il sud della Francia, di armi e bombe per la resistenza, dell'arresto a Nizza e delle torture, altre carceri e torture e tentativi di fuga fino alle Nuove di Torino, al braccio della morte da cui durante i bombardamenti i detenuti non vengono portati via, perché la loro sorte è comunque segnata. Prima lo internano in un campo di concentramento perché italiano, dunque nemico. Poi Enzo convince gli inglesi ad utilizzarlo, benché non si fidino di lui, e la censura tenga sempre gli occhi ben aperti sui suoi articoli di propaganda alla radio o sui giornali. Enzo è convinto che sia necessario tenere strette insieme le ragioni della guerra e quelle dell'antifascismo. Spaventati dal pericolo rosso, i britannici nutrono per Mussolini più di una simpatia. Il piccolo ebreo italiano cocciuto, con le mani ancora callose e la parlantina irrefrenabile, li mette in sospetto e in agitazione. Perciò gli affidano incarichi innocui, cui lui si adatta con scarsa pazienza. Lottare in Palestina contro gli inglesi come se la guerra contro Hitler non esistesse. Combattere a fianco dell'Inghilterra contro Hitler come se non esistesse un problema con gli inglesi. La parola d'ordine lanciata da Ben Gurion è efficace, ma applicarla significa attraversare di continuo la linea del fronte, moltiplicandosi i nemici. Così in Egitto, così in Iraq. Quando è il Mossad ad affidargli una missione, l'identità è più chiara e maggiore l'efficacia con cui agisce. Poi l'Iraq è terra bruciata. Enzo torna in Palestina, in famiglia, con Ada e i bambini del kibbutz che è come fossero tutti i suoi figli. Una calma molto breve. Scrive le note per una sua storia dell'Italia fascista, ma è irrequieto, beve troppo, pensa che questo sia il momento non di pagine, ma di armi. Quando il Mossad di nuovo lo manda a chiamare, è un sollievo. Ada per una volta vorrebbe trattenerlo, dice che il suo posto è lì, in Palestina. Alfonso, come sempre, non fa domande né avanza richieste, accetta le sue scelte che sa irrinunciabili. Nell'Italia liberata Enzo si entusiasma di tutto, come un innamorato riappacificato. I paesaggi, le donne, il cibo, i colori, tutto lo ubriaca. E la prospettiva dell'azione, al di là delle linee tedesche nell'Italia occupata, salvare gli ebrei intrappolati e senza più vie di fuga, alimentare la resistenza e forse salvare Mimmo che è al nord, nelle mani dei tedeschi. Il 17 aprile 1944 Enzo compie 39 anni Il giorno successivo ha inizio l'addestramento della piccola unità di paracadutisti che dirige. Gli altri sono più giovani, più atletici di lui, liberi da legami familiari e responsabilità politiche. Per questo pensano che si limiterà a comandarli senza partecipare alle azioni in prima persona. A Tel Aviv, del resto, i dirigenti sionisti hanno faticato a lasciarlo andar via. A Golda Meir, che accampa il bisogno che si ha di lui lì per costruire agli ebrei un focolare, Enzo ha detto di non essere triste, perché lui ha tutte le intenzioni di tornare. Il 15 maggio del 44, alle 11 del mattino, un aereo decolla da un aeroporto militare dalle parti di Bari. Già una volta la missione è stata rinviata per troppo vento. Nei cieli della Toscana anche oggi il tempo è cattivo e la visibilità scarsa. Lampeggia una luce rossa. Pronti per il lancio. Forse un errore, forse la sfortuna, forse un tradimento. Nel carcere di Verona Enzo entrò come Shmuel Barda, capitano, e già sapevano che era ebreo. Fu torturato, non parlò. Dal Comitato di Liberazione Nazionale del Veneto venne ai detenuti l'informazione che si chiamava Sereni e che bisognava aiutarlo. Da Verona al campo di Gris, vicino a Bolzano, Enzo ancora indossava la sua divisa da ufficiale con sopra due triangoli. Uno rosso lo classificava fra i detenuti politici pericolosi, l'altro giallo lo confermava ebreo. Di nuovo fu torturato, di nuovo non parlò. Come un sacco di stracci lo buttano in una cella vuota. Quando ha la forza di alzarsi guarda dallo spioncino. Una sola cella occupata, quella di fronte alla sua. Pensa ad una spia, a qualcuno messo lì ad aspettare che lui si tradisca. Anche l'altro pensa la stessa cosa. È un prete cattolico. Anche lui è stato torturato, anche lui è riuscito a non parlare. Di se stessi non hanno niente da perdere. Al di là di qualsiasi cosa possano dire o fare, la morte è il loro destino immediato e inevitabile. Ma non vogliono scendere a patti con il nemico, in alcun modo. Perciò ogni parola deve essere verificata, benché la fame di parole sia tanto grande. Attraverso lo spioncino della porta, con le labbra gonfie, il sacerdote mormora: Tohu. Enzo si prende un attimo per pensare, meravigliato della citazione ebraica in quel luogo. Cerca nella memoria offuscata dalle botte la risposta da dare. Poi va, bohu, dice, deserto e vuoto. Uno dei primi versetti del Pentateuco. E da lì partono per un viaggio che prima è verifica e poi possibilità di fidarsi, di parlare, con un gusto della speculazione intellettuale che li restituisce uomini. L'8 ottobre partirono da Gris sui carri bestiame e quando passarono il Brennero capirono che la speranza era finita. All'arrivo la scritta Arbeit macht frei. Dei campi Enzo sa più di altri, ma non tutto. Blocco 25, disinfestazione e rasatura. Il numero d'appello è 113.160. La divisa quella di tutti. Si dorme in tre in un cubicolo insufficiente per uno. La brutalità gratuita. Il lavoro forzato è spesso vistosamente inutile. Da Dachau, trasferimento a un campo di lavoro più piccolo, Mühldorf. Bombardamento notturno su Monaco. I boati, i bagliori. Tutti nel campo vedono e sentono, prigionieri e carcerieri. La mattina dopo, sul piazzale degli appelli infiniti, il comandante urla. «L'ebreo che vuole sganciarci le bombe sopra la testa, chi sarebbe?» I veterani del campo agghiacciati. Le esperienze li hanno ammutoliti. Enzo fa un passo avanti, dice «Io!» E non succede niente, come se l'impudenza o l'eroismo agli occhi dei nazisti lo proteggessero. E infatti ha un qualche potere. La conoscenza che ha di molte lingue ne fa l'interprete quasi ufficiale del campo e i suoi interventi riescono talvolta a salvare qualche compagno da una punizione o a mitigarla. A chi gli chiede, proprio per le tante lingue che sa, di che nazionalità sia, risponde ebreo. La notte del 17 novembre due SS entrano nella baracca. Uno dei due urla «Capitano Barda!». Quando gli dicono del trasferimento sta per prendere la coperta e i minimi effetti personali. Gli dicono «La coperta no». Il giorno dopo, con mirabile zelo burocratico, l'impiegato dell'ufficio matricola di Dachau prese il fascicolo del capitano Schmuel Barda e vi inserì un'informazione brevissima. Westorben, 18 novembre 44.